Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Buonasera, buonasera a tutti e bentornati per il vostro sabato sera qui su Radio Wombat a Basement Records. Avrete riconosciuto la sigla e riconoscerete in me l'emozione di iniziare questa puntata agognata da così tanto tempo, un corteggiamento durato mesi, anni per avere l'ospite che abbiamo qui stasera, incredibilmente il ritorno di Prog One. Ciao a tutti e concedimi... Senti qua l'emozione nella voce. Sì, una voce si invecchia male. Concedimi un piccolo e doveroso saluto. E così poi la nostra puntata va, ce la... Sì, aspetta. E il mio grande e doveroso saluto va a Orso, va a lui e al suo coraggio e... tante parole non servono, quindi ciao Orso, ecco, questo è per aprire la nostra puntata. Assolutamente. Ringrazio Penapo, perché lui in fondo per voi comuni mortali è... Come sei da lei dama, no? No, ma in realtà sono appena poco. Però lui è appena poco, perché, capito, voi lo non sapete, dice, ah sì sì, ho riconosciuto la voce, da lei dama, invece no, è appena poco. Vedi, anche, infatti sono sempre stato in dubbio su come chiamarmi in radio, cioè sicuramente... pena poco ormai mi è rimasto attaccato addosso. Pena poco, pena poco. E cioè, questa emozione è stato appunto un corteggiamento che se tu fossi stato una figa avremmo mollato davvero tanto no, prima. Diciamoci, allora, diciamola tutta, ha cagato il lezzo, come si dice dalle mie parti. Mi sono dovuto fugare. Quindi sono venuto, perché se no sì, stavo a casa, stavo bene, poi soprattutto ora che è sabato sera che venivo qua... con pena poco. C'è da fare subito questo sabato. Ecco, per partenza di questo sabato sera vedo sul piatto della tua immensa collezione. Già... Ci volevi stupire tutti. C'è già, sì, perché praticamente pena poco mi ha dato carta bianca. Dice porta quello che vuoi. T'ha sbagliato, perché se mi dici porta quello che vuoi è la fine, cioè no, però era proprio quello che volevo io. E io volevo proprio aprire con questo, perché sono andato a frugare nei miei dischi e ho detto cacchio, questo lo voglio per apertura, lo mandiamo? Sicuramente, e per la serie rubiamogli il lavoro, o stasera si ruberà innanzitutto con il primo pezzo il lavoro alla fuga del gatto di domani, perché inizieremo con questa incisione della Columbia, del mitico Schiaccianoci di Tchaikovsky. Grande. Subito prog che ci stupisce. Vai, Basement Records. Vai. se no ce lo potevamo ascoltare tutto questo schiaccianoci. Quante, dovremmo chiedere a Bloody Mary quanti movimenti ci siamo sentiti. Però è sempre un grande piacere, insomma, un'apertura così che non mi sarei mai aspettato. È vero. Mai. E intanto, visto, volevo fare anche un altro saluto io, visto il gradito ospite, volevo salutare anche il mitico DJ Azio, che grande. So che è dovuto tornare nelle natie terre dei Caraibi. Ah, sì? A fare le sue tarantelle, sì, a inselvatichire, sapevo io. Sì, sì, è vero. Però, ragazzi, sono disgrazie, anche nelle migliori famiglie, purtroppo. Un grande saluto a Zio, vero mito di Radio Wombat, che ci ha concesso stasera il ritorno di Prog One. Ok, allora io credo, guarda, abbiamo dei problemi tecnici come sempre. Ai compagni di Radio Wombat diciamo di comprare un altro giradischi. Fai un appello. Facciamo un appello, che compriamo dei cazzo di giradischi e un mixer decenti, degni di una radio. Anche Prog One dice che non sono poi così zoppo, che la colpa sia tutta mia. No, assolutamente no. Infatti ora stiamo andando su un giradischi solo, quindi ci sarà questo cambio di... Ora proviamo a risolvere il problema, però nel frattempo. Lo risolveremo come l'abbiamo sempre risolto. E sempre, always. E nulla, io il prossimo disco che mando... Già, l'avevi già anticipato. È vero, perché questo è come si diceva prima con Coppenap... Si diceva, questo lo metti, lo mandi tutto, perché è una sorta di... Come dico sempre anch'io a Basement, tra capito, no? Nella Progressive, faremo, no? Nei dischi, faremo. I gruppi prog usavano queste suite lunghissime, questi concept album. Questo io credo non sia un concept album, non lo so, dopo l'andremo a ricercare, però per me lo è, perché questo lo metti, parte, è tutto un pezzo. Certo, uno dei grandi classici della discografia del Boss. Vero. Ha tirato fuori la bomba di fine 70, se non mi sbaglio. Sì, sì, ora stavo proprio cercando sul disco se c'era la data, ma... Non fidati giusto, mi sembra, sui fine 70, leggendario Nebraska. Te, nel 1982, ecco, o quantomeno questa è la stampa dell'82. Ma non credo, perché tra le prime stampe, perché poi uscì in vari paesi, in varie nazioni. E comunque, appunto, come ha detto appena poco, Bruce Springsteen. Uno dei grandi classici di Bruce Springsteen. E questo è Nebraska. E quando... Ci andremo ad ascoltare, mi avevi anticipato, se non mi sbaglio, Highway Patrol. Esso, sì. Vai, lo mando? Mandalo, vai, ovviamente, a Basement Records. Radio Wombat. I work for the state. I'm a sergeant out of Burnville, barracks number 8. I always done an honest job, as honest as I could. I got a brother named Frankie, and Frankie ain't no good. Now ever since we was young kids, it's been the same come down. I get a call on the short way, Frankie's in trouble downtown. Well, if it was any other man, I'd put him straight away. But when it's your brother, sometimes you look the other way. Yeah, me and Frankie laughing and drinking, nothing feels better than blood on blood. Taking turns dancing with Maria as a band played Night of the Johnstown Flood. I catch him when he streams like any brother would. Man turns his back on his family, well, he just ain't no good. Well, Frankie went in the army back in 1965. I got a farm to firm, settled down to Maria for my wife. But then wheat prices kept on dropping till it was like we were getting robbed. Frankie came home in 68, and me, I took this job. Yeah, we're laughing and drinking, nothing feels better than blood on blood. Taking turns dancing with Maria as the band played Night of the Johnstown Flood. I catch him when street, teach him how to walk that line. Man turned his back on his family, he ain't no friend of mine. Well, the night was like any, I got a call about quarter to nine. There was trouble in a root house out on the Michigan line. There was a kid lying on the floor looking bad, bleeding hard from his head. There was a girl crying at a table, and it was Frankie said. Well, I went out and I jumped in my car, then I hit the lights. Well, I must have done 110 through Michigan County that night. It was out at the crossroads, down round Willow Bank. Seen a Buick with a high plates, behind the wheel was Frank. Well, I chased him through them county roads till a sign said Canadian border 5 miles from here. I pulled over the side of the highway and watched his taillights disappear. Me and Frankie laughing and drinking, nothing feels better than blood on blood. Taking turns dancing with Marie as the band plays Night of the Johnstown Flood. I catch him when he streams like any brother would. Man turned his back on his family, he just ain't no good. Yellow, still it never lies. eyes laced with secret pleasure. Saying that you're on the way to change. Devouring in inordinate measure every diversion that arrays before every appetite or cool attraction. But there's a panic in your action. Oh, I never saw you look so doppietta, signori, per rimembrare i bei tempi del rovescio della medaglia. Vero, vero. Grandissimi Van der Graaf Generator con un pezzone. Vero? Con Last Frame. Sì, sì, perché appunto era interessante anche, cioè, quando appena poco mi ha chiesto di portare i dischi. E comunque, diciamo, come si dice? Cioè, diciamo, il tuo retroterra comprende anche del progresso. Sì, sì. Il criterio, ecco, il criterio di selezione era comunque in qualche modo abbinare la mia selezione a una serie di aneddoti fighi e meno, perché ho portato anche degli aneddoti fighi che poi tiro fuori. Hai visto che belle direttive che gli avevo dato? si sembra portati dalla piena, ma invece siamo proprio arrivati. Siamo proprio stati insieme a tutti i tronchi, al cinacci. Sì. No, io fui ritrovato in una tana di cosi, di castori. Di castori? Sì, io ero un castrato dentro i legni. Okay. E quindi nulla, quindi Van der Graaf, perché questo sono due dischi, sono di cui il primo album che abbiamo ascoltato ora si chiama The Pleasure Dome, giusto? No, The Quiet Zone. Del 1977. E poi c'è un altro Van der Graaf che metteremo dopo, non ora, subito dopo. Gli spoileri così la puntata, che sta facendo? È vero, in effetti è deformazione professionale, perché quando parto alla radio, quando facevo la radio anche io partivo subito. Al nostro Prog One non piacciono le sorprese già. Infatti sì, poi devo ammettere pure giusto, mi mette giusto. L'ansia quando uno dice arriva, no, allora taglio la testa al toro. No, stai sereno. Infatti ora ci si sbronza almeno. Stai sereno. E quindi l'altro è Still Life, sempre di Van der Graaf, e questo è un regalo di Bloody Mary. Capito? Che un giorno si parlava, disse: cacchio, a me i Van der Graaf piacciono un sacco, un po' tutta quella scena. Cacci denti. E poi un bel giorno è venuto e me li ha regalati. Graaf che volevo buttare via. Ma stavo facendo le pulizie in casa. No, lo prendo io. E quindi mi ha regalato questi due dischi e contento, felicissimo. E gli ho, quindi questo è il primo aneddoto, il primo collegamento. Poi, perché come si dice sempre, ogni vinile ha una storia. Vero, quindi ora fai gli onori di casa, se no qua pare che la puntata è mia, la trasmissione è mia. Certo, per forza. E io che ti ho invitato a fare, se no. Non dico più nulla ora. No, sì. Invece mi avevi raccontato un aneddoto bellissimo del prossimo disco che volevi mettere. Vero. Perché sono un altro disco prog, che prog, gli alfieri del progressive rock, gli Yes, un altro discone direttamente dai bei tempi del rovescio della medaglia. Un salutone a Prog 357 Magnum. Grande Prog! Oh, intanto ordina da bere, se ci stai ascoltando. Anzi, porta da bere. Ecco. Più che ordinare. Sarebbe ancora meglio. E dimmi un po' di questi Yes, come sono arrivati nelle tue mani? Nulla, praticamente troppi anni fa ero a casa mia e c'erano ancora, sai, le cassette così. E trovai questa cassetta, non lo so perché ho letto Yes. I dinosauri detto, che passavano fuori dalla finestra, sì, le cassette. Come si chiamano? No, non mi viene il nome. Le scolopendre. Che giravano per casa. C'è anche un album o un gruppo prog, scolopendre. Ora non ci perdiamo. Nel prog io mi ero promesso di non avrei portato nulla di prog, però... è solo questo prog, solo questo. Solo... se sei prog devi portare prog. Gli altri li ho lasciati a casa per rispetto di tanti tanti colleghi di radio hanno detto madonna palle con le tue suite da 38 minuti. E... vabbè, io gli ho messo l'ause, ancora non mi hanno linciato. Sai, però visto, io sono delicato, sono un cucciolo. E quindi nulla, trovai questa cassetta e gli Yes, senti che nome buffo, bizzarro, e l'album era Time and the World, e ascoltai questa cassetta e mi colpì anche molto questa copertina così surreale. Hanno fatto bello, un bel quadro. Infatti un bel quadro perché c'è una donna mezza nude. C'è le donne nude? E quindi mi ha colpito parecchio, ho detto, ascolto, e alla fine quella cassetta l'ho consumata. E quindi, quante volte l'hai dovuta riavvolgere con la matita? Con la, sì, con la bic, la penna bic. E rimaneva, e poi si incartava tutta. No, io avevo uno stereo, signor Penapò, io non so da quale slum, da quale favela vieni te, ma io avevo uno stereo che riavvolgeva, capito? Sì, però... dopo le ascoltavi un sacco di volte e le ristoppavi, si creavano, se lei si ricorda di quei tempi, delle ondine nel nastro a forza di stoppare e far ripartire, che poi facevano in modo che il nastro della cassetta rimanesse incastrato, sì, nei meccanismi del registratore, e si avvolgeva. Solo io c'avevo sta sfiga. Non mi è mai successo, no? Solo io c'avevo sta sfiga. Roba di dubbia qualità, no. No, non è colpa mia. È da lì che ho iniziato a bestemmiare, infatti. Ho iniziato molto presto. Anch'io, sì, sì, infatti no, non ho mai, i miei non si sono mai preoccupati di portarmi dal come si chiama, dal logopedista, infatti pure mia figlia ha cominciato subito, ha detto no, logopedista, no, subito, bestemmia per tradizione, dal 1980, fin dai lontani tempi. E quindi no, ho ritrovato questo disco e ero felicissimo e l'ho preso e quindi boh, ce lo fai ascoltare o te lo tieni per te? No, infatti ci ascoltiamo proprio il pezzo che dà il nome all'album, Time and the World. Per forza. Vai. Direttamente gli Yes a Basement Records, Radio Wombat. Open up your eyes, see what I see. Do you see the same things every day? Do you think of a way to start the day? Getting things in proportion. Spread the news and time that will help us get it together again. Have you heard of the word that will stop us going? Madonna, come si sente che stasera c'è un DJ vero, serio. And I got a feeling, honey. Don't you know that I'm loving you? And I got a feeling, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me? And I'll take my hand. Oh, won't you come with me? And I'll walk this land. Please take my hand. Let me tell you that. Here I go. You know that I'm loving you. And I got a Lolita, baby. Don't you know that I'll always be true? Sono gli Iron Butterfly che continuano ad andare qui in sottofondo. Grande, grande. Grandissimo, grandissimo gruppo. Il loro più grande classico, penso. E scelte, diciamo, è stata, gatta alla vita. È stata una scelta difficilissima, perché ero molto combattuto, perché vedendola tipo 16 minuti di pezzo, credo. Ho detto, accidenti. Come un pezzo. È sempre il caso, eh. Però il record va ancora battuto, perché dopo dopo mi sa che si arriva a 26 minuti qualcosa, però decideremo se mandarlo o meno, penso. Dopo decidiamo. Tanto tieniti anche qualcosa per il mezzanotte e mezzogiorno che mi hai promesso, okay, per tieniti anche qualcosa per il mezzanotte e mezzogiorno e poi per l'after dopo, Anche questo è un pezzo bellissimo, tra poco parte l'assolo di batteria e... Iron Butterfly, e quelli di prima erano sempre i Van der Graaf Generator con Pilgrims, quello che abbiamo mixato in sequenza qui oggi, anche mixing live, sempre il tutto Basement Records, quindi era proprio spontanea così, senza... E visto che sta andando questo grande disco in sottofondo, a questo punto ne approfitterei per ricordare ai nostri ascoltatori tutti i nostri indirizzi per mettervi in contatto con noi qui a Radio Wombat. Ovviamente il sito, che rimane sempre wombat.noblogs.org, la nostra frequenza in onde mediocri, in onde medie nella zona fiorentina, ovvero 1359 1359 del vostro autoradio se capitate o abitate nelle zone di Firenze. Ovviamente la nostra mail per suggerimenti e tutto quello che vi pare, mandateci una mail a postawombat@insiberia.net, che è dove ci manderanno, lo sai bene, vero? È sempre per ricordarsi qual è la destinazione finale. Ma perché ci piace la neve, mica per altro. La neve. No, in Siberia c'è poco. Ma si può snowboardare, no? È un po' piatto, secondo me. Vabbè, però t'attacchi. T'attacchi, esatto. No, troverai altri spediti là che ti tireranno a mo' di aschi, a mo' di cani. Un bel invece che cani da slitta, noi abbiamo i sovversivi da slitta. Tocca farsi tirare dagli aschi. Va bene. E in poi... effetti io dico va bene come se presentassi io sono un ospite qua. Ora vado in albergo, mi viene a chiamare. Certo, il servizio in camera era tutto a posto. Sì, grazie. Le lenzuola. Le richieste sono state tutte soddisfatte. Andiamo avanti con la trasmissione, qua Radio Wombat risica pure su, su tutto avanti. Su cachet, sull'albergo, sulle richieste personali extra, va bene, però... andiamo avanti. E su Twitter potete trovarci su twitter.com/radiowombatfi e nostro canale Facebook, perché siamo anche su Facebook. E è facebook.com/radiowombatfirenze e ci troverete. E poi vi volevi... C'è l'assolo, c'è l'assolo di batteria. Stavamo aspettando solo questo, chiacchierando e perdendo tempo. Il pezzo fa cagare. Quindi... l'assolo di batteria? Album portavano, fatto proprio bene, infatti io te la appoggiavo assolutamente. gag della vita, che per la fine, veramente. Mi fermo, mi distraio. Sfumiamoci questa gag della vita, però mi raccontavi anche un bel aneddoto sul ritrovamento del prossimo vinile. È vero. Che l'hai trovato a meno euro. Sì, l'ho trovato. Perché qui stiamo parlando di un uomo che vive guardando un famosissimo sito che non nomineremo per non fare pubblicità. Certo. Guardando sempre i vinili. Oh, ma di che ho trovato? Sì! No, sì, però poi c'è il guaio, è che fondamentalmente no. Non mi posso permettere nulla, però quindi infatti io non sono un collezionista, sono un sognatore di vinili, non diciamo, ecco, forse. Infatti purtroppo lo conosco molto bene anche io, il sito che dici te, cioè. E è un cioè lì è un buco nero dove finisce praticamente tutto il tuo stipendio se lo apri, perché oh no, cazzo, ma che c'è quello là, no, ma questo ce l'ha questo tifo in Sudafrica, fammelo mandare, non ce l'ha nessuno. Se lo apri e sei appassionato di musica in generale, ti piace averla proprio fisicamente come un feticista, e un po' in questa cosa mi ci riconosco. Vero. E lo apri e è finita, cioè guardi il tuo portafoglio, lo saluti e dici ma è stato bello conoscerti. No, così. Infatti cioè, il prossimo disco invece, questo pagato proprio 5 euro come si diceva prima, perché c'è un po' la copertina rovinata. E non mi interessa copertina apribile, e poi l'ho ascoltato, ti dirò il lato A non mi fa impazzire, ma il lato B è, infatti questo io sono sempre stato ero combattuto pure su questa decisione, perché in verità io volevo mandare l'intero side B di questo disco. Allora devo dire che qui con me sfondi una porta aperta, che sono tre pezzi, quindi ho detto tutto, sono tre pezzi, e ho detto vabbè, allora scegliamo uno. E loro poi, sono sempre stato per il lato B, sempre stata questa diatriba, vero? Sì, io mi riconosco nel grande insieme del lato B. Sì, lato A, lato B, come quello. No, poi che c'entra, si fa, come si dice, si fa per ragionare. Sì, certo, no, infatti no, la censura no. Aspetta, mandatemi. No, aspetta, siccome è un ragazzo molto timido, mi succedeva pure a diventato Viola. Con Prog 137 con DJ Azio alla radio, e immagino sempre di essere, mi dimentico sempre che ho un ragazzo sensibile, di essere un oratore, di avere una folla davanti a me che pende dalle mie labbra, dalle mie parole, dai miei discorsi. Devi perdonare, lo sai, la mia indole da metalmeccanico, purtroppo. Anche se faccio il serio, dentro di me, quando poi me le metti sul piatto d'argento, non ce la faccio a resistere. Working class, classe obrera, sempre. Senti, e lui questo disco si chiama Fireball. E loro sono i Deep Purple. Hai detto stecco. E quindi nulla, io direi proprio di ascoltarci. Sì, questo pezzo spacca proprio psichedelia bestia, va bene? Mandiamolo, che vado a fare il pezzo è No One Came, va bene? Non arriva nessuno. Deep Purple, Basement Records, Radio Wombat. I'm only starting, I think it won't take too long. Maybe it's because I can see you laughing, I think you've got it wrong. Maybe I could be like Robin Hood, like an outlaw dressed all in green. Someone said, what's he gonna turn out like? Someone else said, never mind. Twice as old as all the cats I'd ever seen. I grew my hair and bought a suit of shiny white, or was it cream? I shook and shivered and danced and quivered and stoned and tossed. Stone came from miles around and said, man, your music is really hot. Well, I knew what they meant because I was a freak. Oh, my throat was tired and warm. My said my boy will have some crazy scenes. The one in his scenes that all like he was talking about. Yeah, he must have been the king of queens. Sing, so they never get sung. Well, it's law for the rich and one for the poor. And there's another one singing. It's die young and live much longer and spend your money and sit and wonder. No one came from miles around and said, man, your music is really funky. ok. E a me piace avere sempre un sottofondo musicale imbarazzante, là, la radio col silenzio sotto non ce la faccio. Bravo, mi sembra proprio una bella idea. Poi infatti si parlava prima, quella volta che mandasti, che hai fatto la puntata sui Grateful Dead, che hai mandato quel live infinito, era bellissimo. Era. Live Dead, sì, no, ma poi era una fase all'inizio di Tonight Alive, avevo avuto questa idea delirante di mettere sempre un pezzo in loop in sottofondo con me che parlavo ancora più di quanto parlo ora, proprio dei monologhi da suicidio di ore. Infatti era stata istituita come come mezzo perfetto per l'istigazione al suicidio, sembrava la cabina del suicidio di Futurama in versione radiofonica. Era nato proprio un gruppo di paramilitari DJ per combattere i monologhi di Penapò. Ora non è che sia molto diverso, ma spero che induca. Almeno in questa puntata ti interrompo io, quindi appena parti. Ehi. No, ma Basement Records non conta, non vale. Ok. E qui avrete riconosciuto sicuramente, dopo i Deep Purple con No One Came, questa che tuttora sta andando in sottofondo sono i leggendari Pink Floyd con Us and Them, da The Dark Side of the Moon, penso un capolavoro della musica tutta, neanche di un genere in particolare, insomma, un disco leggendario che non ha bisogno di presentazioni, con il suo prisma che fa uscire l'arcobaleno dal suo punto di luce. Un disco veramente meraviglioso. Però vedo sull'altro piatto del giradischi qui della regia di Radio Wombat. Aspetta, fammi di l'unico aneddoto figo che ho, tu me lo spezzi così. Ma lo sai che c'ho la memoria di un pesce rosso. Questo è l'unico aneddoto figo che posso raccontare, che fa un po' tendenza, fa un po' chic. Sì, facciamo che questo lo nulla, questo disco, così, questo disco praticamente l'ho comprato a Ginevra. E quando sono andato a suonare con l'innominabile mio collega, anche lui che ha fatto una nemmeno non grande si può dire nemmeno Giannetto, ecco, vedi, ora problemi tuoi, perché quello vuole essere pagato per essere nominato, capito? Però vabbè, no, poi quando torna ci si fruga tutto voi, insieme, no? Okay. Sì, si fa un forfettario, e quindi siamo andati a suonare a Ginevra. E la mattina, il sabato mattina, c'era il mercato. C'era il mercatino dell'usato, c'era un mare. Come di bancarelle. Come mai risvegli sabato mattina? Sveglio, no. So, eravamo presenti sabato mattina a Ginevra, un sabato mattina d'inverno, era febbraio, e c'era questo Mino che aveva questa paccata di dischi, e in maniera molto professionale buttati nella pozzanghera. Certo. Era per dargli quello strato di protezione. Sì, è come la crema solare quando vai al mare. Capito? Infatti, scusa, ma cosa? Ora, va bene tutto, no? Perché sai, c'è la classifica delle priorità, ognuno di noi. No, però io non lo posso vedere i dischi nella pozzanghera. E quindi sono andato a frugare, e per fortuna ho trovato questo disco che era. Non era proprio nella pozzanghera. Per fortuna c'erano altri dischi che si stavano immergendo. Lui stava arrivando all'acqua. La piena stava portando via pure questo disco. Pure lui oltre a noi. Ha detto: vieni, in un francese maccheronico, come il mio italiano maccheronico. Gli ho detto: amico mio, ma... E quindi ho detto: vai, dammi 10 franchi e tu vai. Questo è l'unico aneddoto figo. Poi per il resto sono. Comunque, già essersi accaparrati un Dark Side of the Moon a quanto? 10 franchi. Tanta roba, insomma, no? Vai, ora ci piace. Ora vuoi presentare, cioè, puoi presentare, me la butti lì e me. E non mi ha detto nulla. L'unico aneddoto figo, e lo dovevo dire per forza. Io so di quest'altro disco. So che mi hai portato, perché vedo laggiù in lontananza, grazie ai miei raggi infrarossi, vedo che ci hai portato il mitico Claudio Lolli. Sì, Anna di Francia. Anna di Francia, Claudio Lolli, ricordiamo, cantautore di movimento. Che l'anno scorso, l'anno scorso è passato, come si dice, go away. Yes, ha lasciato questa valle di lacrime. Questo è un disco stupendo, e questo è bellissimo. Poi un cantautore, io credo il suo miglior disco, ecco. Un cantautore che, se non lo conoscete, vale sicuramente la pena di andare a recuperare, specialmente se siete appassionati di cantautorato. Tra l'altro io poi l'ho visto compagno. Lui, l'ho visto lui nel 2000 o 2001. L'ho visto a Bologna quando ha rifatto questo album. Ho visto anche degli Zingari Felici, che è un capolavoro. Quando l'ha rifatto, quando l'ha rifatto con Il Parto delle Nuvole Pesanti. E sicché, quindi mi sono visto lui con loro che rifacevano tutto questo disco. Suonavano tanta roba. No, con lui l'ha rifatto questo disco pari pari con Il Parto delle Nuvole Pesanti. E quindi anche progressi, va addirittura oltre il cantautorato, sì. Eppure si sono attenuti al disco. È un'interpretazione degna. E poi l'ho visto anche due volte, a Firenze, credo alla Fortezza, forse sì. Addirittura. E vedo anche un prezzo imposto di 3.500 lire. Sì, questa è una ristampa. Diciamo subito dopo l'uscita della stampa ufficiale, che leggo che è uscito questo disco nel giugno del 1975, tra l'altro metà anni 70. E questo anche, che fai, lo avrei mandato tutto, l'ho scelto ora al volo, ho scelto questo pezzo Anna di Francia, molto bello, e quindi io lo ascolterei. Ascoltiamoci subito, ovviamente, qui a Basement Records, Radio Wombat. Anna che ride, Anna che scherza, Anna che ascolta, che parla, Anna che chiede, vuole sapere come andremo a finire la sera. Anna la piazza ti ama, come Anna racconta l'ultima Francia, com'era grigia, com'era triste. Anna racconta un nuovo lavoro, sempre camice, solo camice. Anna ti sembra di essere pazza, Anna la piazza ti ama con me. Arrabbia, basta parlare, Anna si alza.

questi mixati dopo il grande Claudio Lolli erano ovviamente i CCCP con And the Radio Plays. Vero, pezzone vero. Quasi direi quasi reggae per i CCCP. Reggae con diciamo aspetta, scusate, mi avvicino al microfono. Oltre a diciamo Annarella e And Radio Plays, diciamo è la loro parentesi reggae che almeno a ricordi miei sì, poi magari ci sono altri pezzi che non conosco, che non ricordo. Quando Giovanni Lindo ancora si doveva rinsavire, quando prima del rinsavimento. Sì, è vero, prima che rivedesse la luce, Poi io sinceramente non lo riesco a condannare per la sua per il suo percorso spirituale, perché no, è successo che tanta gente negli anni ha fatto anche critiche molto forti nei suoi confronti di questo suo percorso spirituale. Ma a caso, così gente a caso, io non lo condanno. Mi dici, puoi dirmi come si chiama questo disco, volendo, no? Ti posso dire che sono quel disco dei CCCP che tra l'altro mi raccontavi che l'avevi ritrovato a ripulire in un negozio di dischi, e questo è Canzoni, Preghiere, Danze del secondo millennio, sezione Europa, dei CCCP, fedeli alla linea. È uscito nel 1989. Esatto. E c'è la parte finale molto bella in cui c'è Annarella che presenta il gruppo, e ora non lo riesco a trovare, accidenti, c'è una parte molto simpatica che va bene. L'ho trovato, che presenta il gruppo, e quindi c'è Giovanni Lindo Ferretti voce, Massimo Zamboni corda amplificata, Ignazio Orlando basso tastiere, Carlo Chiapparini chitarra, Danilo Fatur artista del popolo e Annarella giudici benemerita soubrette. Bellissimo. E lei lo presenta con la sua voce, sai, un po' molto poetica, molto bellissimo. E quindi il prossimo disco, addirittura mi hai detto che questo proprio lo volevi mettere, perché eri lì che stavi gonfiando tutte le fiume raccontandomi la storia di questo disco. E questi sono i The Downtowners. Sì, per continuare sul tuo piatto forte, hai messo il pezzo reggae dei CCCP e proseguiamo su quest'onda, visto che è uno dei tuoi tasti forti. Questo è più Two-Tone, che reggae. Sì, nel senso, nel grande calderone della musica caraibica, sarà Two-Tone, allora è ska. Sì, ska. Diciamo più influenza inglese che caraibica, però sì, noi, il Caraibe c'è sempre. Certo. Two-Tone, grande etichetta inglese che ha portato lo ska in terra d'Albione, ha fatto ammalare letteralmente tutti strano, i giovani. Ragazzo, il suono della Two-Tone che ha influenzato tantissimo qua in Italia. Avevo fatto una puntata sui Casino Royale, che appunto il loro inizio di carriera è il rifacimento pari pari delle sonorità della Two-Tone Records e dei suoni ska che arrivavano dall'Inghilterra. Vero. E poi se ci abbiamo tempo, metteremo anche un gruppo anche inglese, un po' meno Two-Tone. Mm-hmm. Però loro sono entrato un po' così a gamba tesa. Loro sono i Downtowners, che era un gruppo romano, ed escono con questo EP. Sono italiani allora? Sì, erano romani. E escono praticamente con questo EP, che sono 3-3-6, mi sa, o 3-2-5, comunque 5-6 pezzi, su formato 12 pollici. A parte la, diciamo, chiamiamola così, malattia mia di trovare gruppi sconosciuti o mono produzioni. Ognuno ha le sue passioni. E quindi loro, ho visto, ho detto no, aspetta, fermo un attimo, hanno fatto solo questo disco, e quindi è fantastico, del 1990. One It Wonder, come si chiamano. E ancora peggio, per non volersi far mancare nulla, E praticamente sono riuscito, è uscito in stampa italiana e stampa inglese. Io sono riuscito a trovare entrambi, tutte e due. Cioè, a livello di grafica sono diversi, e a livello di pezzi di produzione musicale, no, sono cinque pezzi, sono quelli. Ah, i brani sono gli stessi. Semplicemente le stampe, le copertine sono diverse. Spesso tra edizione e edizione non c'è gli stessi pezzi. E invece loro è. Hanno fatto solo sti pezzi, poi non ci si poteva sbagliare. Quelli hanno registrato e quelli ci sono. E quindi, però, le stampe sono completamente diverse. Le volevo avere tutte e due. E negli anni sono riuscito a distanza di tempo. Trovai prima quella italiana proprio per pura caso, non sapevo chi erano. Mi attirò la copertina con grafica a me familiare, scacchi. Gente un po' rasata, così, accidenti, sentiamoli. E poi dopo anni trovai la stampa inglese. E quindi era questo il piccolo aneddoto simpatico. Perfetto. Se vuoi, sentiamoci Downtowners. Sì, con Wide Violence. Ovviamente a Basement Records, Radio Wombat. Thank you. Queste erano le birrette con Mantis, dopo i The Downtowners con Why the Violence, doppietta di ritmi giamaicani con le, anche oltre ai Downtowners che mi dicevi che, era, che sono di Roma, yeah. E poi ormai sì, hanno smesso anche loro solo quel disco. Anzi EP, nemmeno disco. E poi abbiamo proseguito la nostra selezione di stasera con le birrette con la loro Mantis. Sì, mi piaceva presentarlo, promuoverlo e ascoltarlo, riascoltarlo. E loro sono questa mega band tipica dello ska, del rocksteady, tutta al femminile, di Bologna, hanno suonato anche qui a Firenze. E nulla, quindi questo è il loro primo album. Il loro primo album che si chiama Girl Songs Only. E in particolare volevo riascoltare questo pezzo, Mantis. Bellissimo, tra l'altro, molto molto bello. Delle birrette, ricordiamo. E sempre proseguendo su questo solco di casa nostra, sì, vale assolutamente la pena di ascoltare questo pezzo dei Trentini, se non sbaglio, sì, sì, dei Trentini Radio Fontani, un'altra grandissima realtà della musica giamaicana qui in Italia, perché volevo ricordare che Radio Fontani appunto suonano, sì, con questo sound system molto, molto particolare. Sei molto più indicato di me di... nulla, loro praticamente nascono come sound system autocostruito, però si cimentano anche in queste produzioni, e questo è un 7 pollici a edizione limitata, 300 copie, che è uscita poco tempo fa, e la stanno portando anche a giro alle loro session, alle loro serate, e volevo ascoltiamo questo Fight Stand Survive, che sarebbe il pezzo, è molto ska, è bellino, molto interessante, e c'è il lato B, sai, B-side, che è la version di questo pezzo, però noi ascoltiamo solo, sì, questo per questione di tempo. E tra l'altro, parlando con il suo sodale in una serata, mi diceva che appunto la particolarità di Radio Fontani è che è un sound, sì, un sound system, ma che appunto suonano anche dal vivo, e ci sono, sì, sì, no, cioè, praticamente due cantanti, il sassofonista e il bassista, che suonano dal vivo, cosa assolutamente particolare. Il chitarrista che suonano dal vivo durante le session del sound system, quindi non sono solo dischi suonati come un classico dei sound system, ma sono proprio version live che fanno nelle serate, una via di mezzo tra un DJ set di un sound system e proprio un live, perché ci sono proprio loro dal vivo che suonano gli strumenti. Vero, vero, vero. E è una grande particolarità questa di Radio Fontani. Sì. Assolutamente di nota, direi. Assolutamente sì. Vai. Con questa Fight, Stand and Survive, Radio Fontani a Basement Records, Radio Wombat. Thank you. Radio Fontani con Fight, Stand and Survive, pezzone di questo act del Trentino, grandi sodali, grandi DJ set anche qui dalle nostre parti. Abbiamo avuto il piacere di poterli vedere suonare, veramente tanta roba. Se vi capitassero dalle vostre parti, approfittatene sicuramente. E poi altro, qui in questo caso 33 giri, e questi sono i The Natural Dub Cluster e il disco è Biosphere. Sì, continuiamo con la promozione del prodotto locale, giustamente. Quasi chilometri zero, cioè comunque sì, dentro qualche chilometro c'è, sì, dai. Qualche chilometro c'è, ma sempre dentro i confini nazionali, va bene. Sì però... sì. Va bene diciamo, loro nulla, loro sono dei grandi amici e sono i, appunto, come li ha appena presentati te, Natural Dub Cluster. Che sono un trio, sono tre fratelli, però hanno talmente tanti giocattoli elettronici che praticamente fanno per un'orchestra in maggio fiorentino. Con mille persone. E sono molto molto sperimentali. E loro si sono conosciuti proprio sin dagli esordi, in cui, cioè, erano già avanti, però non troppo avanti come lo sono ora. Adesso ora il livello di sperimentazione è altissimo, hanno secondo me addirittura anche influenze tipo Kraftwerk, quindi voglio dire anche più elettronica, sì, insomma. No, più elettronica, ora insomma, è un dub molto molto molto, molto sperimentale, nonché elettronico, a parer mio interessanti, ecco. E questo è il loro primo LP, perché comunque sono usciti credo uno o due album, forse uno, comunque sì, questo qua è un LP. E qualche anno fa si andò a suonare da loro nelle Marche, dai su, ma perché non lo fate un LP? no dai, che vinile, la plastica inquina. L'ultima volta vennero a suonare qua in zona e io avevo visto che era uscito il disco, insomma, la plastica no, l'abbiamo fatto, il vinile era, insomma, ci è piaciuto farlo, è il disco stupendo, è grafica molto minimal, sembra quasi la copertina di un disco elettronico, infatti. Beh, direi dalla copertina così sembra quasi un disco techno, ti direi, dalla copertina. Vero, hanno avuto sempre un po' questa grafica, questo design molto che si avvicina molto, appunto, a quella scena, diciamo, a quella... Molto bella questa foto poi, tra l'altro, questa è la sezione di qualcosa, sembra. Sì. E quindi io vorrei proporre, è molto bello, e ci sono anche vari featuring, e io vorrei proporre No Redemption. Esatto, l'ultima del primo lato. Sì. No Redemption. Natural Dub Cluster, qui a Basement Records, Radio Wombat. questi erano i Marchigiani Natural Dub Cluster con No Redemption, un pezzo bellissimo, molto, molto sperimentale, infatti, sì. Vero, vero. Era quasi, sconfinava quasi nell'ambient, guarda, hanno, secondo me hanno, sì, hanno un sacco di un ambient, un intesa quella degli anni 90, sì. Un sacco di influenze hanno, sì, ecco. Sono molto molto bello. Poi sì, in particolare secondo me si sono persi un po' troppo con i Kraftwerk. Infatti parlavo con uno dei tre fratelli e mi diceva che si erano flippati, infatti, sì. Secondo me si sente molto il suono Kraftwerk. Qui sì, assolutamente. Ma poi mi hai tirato fuori quest'altro 33 che ha una storia, almeno per me, abbastanza particolare, perché anche questi io non li conoscevo assolutamente. Si tratta dei Radical Dance Faction. Sì, RDF. RDF nell'acronimo. E no, raccontami un po'. Ah, il titolo del disco è Beast in the Doorway, Dirty Old Town è il sottotitolo. Appunto, è un EP anche Red questo Faction, RDF, molto bello. Tra l'altro vedo anche tutta la line up segnata qua dietro della AX Records, fatto in Inghilterra. E mi raccontavi appunto delle cose fuori onda, mi raccontavi delle cose molto interessanti a proposito di questo gruppo e di questo album. Sì, perché è una sorta di collettivo praticamente. Diciamo, io li ho paragonati leggendo un po' la loro storia, diciamo, a una sorta di crass del dub, così la versione dub dei come crass. Scena, come sì, pensiero, sì. Come molto interessanti, secondo me sono molto interessanti. Anche loro non hanno una produzione prolifica, e magari se me li cerchi in diretta e riusciamo. Cerco subito. E questo qua, come abbiamo detto, è un EP, sono quattro pezzi, due per lato. E io volevo presentare di questo disco, questo pezzo che si chiama Martin Foran, che se le sonorità sono dub, però quel dub fine 80 inizi 90, è abbastanza suonato, quindi sì, c'è l'influenza elettronica in quanto dub, però molto più suonata. E secondo me, come sonorità, a parte sì che rappresenta molto quello che è stata la scena inglese dub di fine anni 80, inizi anni 90, però questo mi ricorda molto tipo dub poetry, quindi Lyndon Kwesi Johnson, un po' quella scena lì mi ricorda, ecco. Anche se poi è un po' Lyndon Kwesi Johnson ha cominciato molto prima, ovviamente. Sì. E te nel frattempo vedo che hai trovato, vero? L'ho trovato sul nostro amico, però vedo che non c'è, addirittura non è segnato questo, perché dovrebbe essere eccolo qua. Del 94, Beast in the Doorway, Dirty Old Town. Lo stiamo guardando in diretta insieme a voi, disco del 94 appunto. Okay, quindi, vedi? Questo tra l'altro è l'unica stampa su 12. È l'unica stampa in 12 pollici. Nel 94 è uscita, quindi questa stampa e un'altra su CD, quindi questo è... Vedete, ora capite l'occhio lungo del buon Prog One, cosa va a cercare in certi siti strani, eh? Cioè, c'è siti strani e siti strani, ognuno ha il suo, eh? E questa appunto ci andremo a sentire... Martin Foran, che è una demo version, che tra virgolette c'è scritto demo e quindi presuppongo una cosa del genere, e questi sono i Radical Dance Faction qui a Basement Records, Radio Wombat. We'll be right back. is brought to the table. We're under the glove of Bearbow. He hears the stiff word from the book. Your life it is little and nobody is listening. Your body is brittle, not much left for a mind to live in. Who cares where you were what night, cause now we have you under this light and can see that a grain is like death's shadow. It's held in your skin, it's held in your skin. Back in the dark room, gazes round dim corners, long time spent looking at nothing more or less. Got hit for a cleansing, then beaten for screaming. The strong arm lands daily, and each one is fading and taken away. From those that are missing, I can see their faces, but I cannot be in those places. Tell them I would like to be something, meaning I would like to be one thing, which only alters a vision of a life till a trial wished me to prison. I walked along route into darkness, from all around the shadow, the cold and the damp press. Seasons soon ceased to matter, every step brought me to stormy weather. So I say to those that would know me, to feel for this certainty, and see how completely the mechanism once mounted has wasted me away. Questi erano i Radical Dance Faction con Martin Foran, pezzone dal disco, dall'EP Beast in the Doorway del 1994. E come chiusura di questa puntata super speciale con questo grandissimo ospite di Prog One, visto che ha iniziato la puntata sorprendendomi con un pezzo preso dal Lago dei Cigni, DJ Koski, non poteva finire altrettanto con il pezzo di chiusura e ovviamente una sua grandissima, un'altra sua delle tantissime influenze che ha è chiaramente la cumbia, e non potevamo che chiudere con un pezzo cumbiano. E presentamelo per favore, sì, sì. Fammi sapere qualcosa anche a me. Vero, vero, nulla, questa è un'altra mia passione musicale. Ma la mi cumbia mi dicevi che questa però è ecuadoregna. Questa è una stampa, ecuatoriana. Una stampa ecuatoriana, e sì, cioè i gruppi, cioè più che altro diciamo ai tempi, a me piace la cumbia oldies, quindi ai tempi erano delle orchestre praticamente, quindi che ne so, c'era tipo in questo caso ascoltiamo Ricardo Realpe i sus cumbieros, capito? Erano tutte orchestre. Sì. E quindi ora ho anche altri ho voluto portare solo questo che si chiama Bailables de Carnaval, vedi, infatti lo dice pure sulla copertina, orchestra Los Fabulosos. Hacemos música pensando en usted. Facciamo musica pensando a te. E questa è, non sono riuscito a reperire nessuna informazione su questo disco. Pensate un po' che disco ne abbiamo qua per le mani. Non c'è nessuna informazione. È una stampa ecuatoriana, come abbiamo detto prima, e poi ho altre stampe. Ho trovato altri dischetti LP. Di stampe centroamericane, quindi bellino, c'ho tipo ecio in Costa Rica, ecio in Perù, quindi c'ho delle stampe peruviane. magari prossima la prossima puntata esploreremo, portiamo quelli diciamo il resto che non abbiamo suonato e che non ho portato oggi, anche perché se c'è da fare un mezzanotte e mezzogiorno, insomma, c'è da portare i dischi. Vero. Me l'hai promesso? Promesso, promesso. Ci sono i nostri ascoltatori qui, quella mezza persona presente a testimoniare. Il maladetto è in fuori onda, me l'ha detto. Va bene, quindi nulla, quindi non posso dirvi, non riesco a darvi altre notizie su questo disco. Possiamo solo dire Ricardo Realpe mi dia de suerte. Chiaramente i cumbianos qua. Los cumbieros qua a Basement Records, Radio Wombat. Questo è il disco di chiusura, sì, perché ci stanno gettando fuori dalla Wombat regia, quindi anche se avremmo già potuto fare questo mezzanotte e mezzogiorno, però alla prossima volta con il nostro Prog One non ci resta che fare i saluti di un buon proseguimento di sabato sera. E qui da Radio Wombat, da Dalai Dama e dal leggendario Prog One, grazie. Un augurio di un buon sabato sera e ci risentiremo qua sempre su queste frequenze domani domenica per il pomeriggio di musica classica di Radio Wombat, per farci riprendere Vladimir e la Virgi con la fuga del gatto. Ci faranno recuperare le forze nella nostra domenica pomeriggio, non perdetela qui su Radio Wombat. Ciao a tutti, buon sabato sera. Ciao. Un bacione, un abbraccione. Vai con la cumbia. Mandaci la cumbia. Buon sabato sera.